chi sei? Saverio, buonasera. Ciao Saverio, fai bassottino qua, un po' basso, quindi però già riesco a toglierti fuori. Stiamo viaggiando in condizioni precarie, Antennino. Va bene, dai. Santiago 3, Radio 3, diciamo, 4. Quasi incomprensibile perché ho un po' di cuore, ma comunque. Salutone 7351 qua, stazione Tino Muscolo. Buonasera, ben ascoltato Tino Muscolo. Adesso dai, stiamo facendo scaldare un qualcosina, faccio un paio di passaggi e dopo si va a trabaccare. Bene, bene, va bene. Quando c'è voce c'è voce. Scappa, vediamo un po'. Non ne abbiamo. Tino, dove ti trovi? Che zona sei? Diciamo in periferia QTH Campagnolo, periferia La Feroce. Ok, ok, quindi siamo vicini, dai. Vediamo che segnale tu, vieni avanti. Sì, diciamo che vicino non lo so, io non so dove tu sei, però adesso sei quasi un Santiago di 5, quasi 5, là, riesco ancora a tenerti in testa. 9-10, sei 9-10 tu. Vediamo un po' se riesco a guadagnare qualcosina. Adesso vediamo, aspetta un attimo. Li ho trovati, ne ho pagati 1,50, l'altro 40, ma diciamo che uno rende un po' più all'altro, è una versione leggermente, cambia di poco, però ho notato che con il wattmetro uno sale di più, l'altro un po' di meno, però vanno bene uguale entrambi, perché uno mi dà intorno ai 65-70 watt, l'altro invece sale oltre anche gli 90-100 watt di piccoli, li tocca benissimo. Sì, capo, quando lo ritrovo, lavoro giù a cucchiata i radiatori, diciamo, un 747, 95, e diciamo, vediamo, facciamo sentire un po' ovunque. Quando c'è la preparazione, andiamo divertivo. Sì, va bene, va bene. Va bene, salve, dai, devo fare due cosette al computer, non sento l'importante, quindi sono entrato a salutare. Se coincide più tardi, ok? Sì, anch'io, ti saluto, è stato un piacere. Alle prossime, io ho acceso due minuti prima di andare al lavoro, io adesso parto, vado a lavorare. Ciao, buona serata, buon proseguo. Bene, allora, niente, buon lavoro e buon rientro a casa. Ciao, ciao. Claudio, ci sei? Marco, ci sei in ascolto? Vuoi parlare con uno? Davvero? Non falli, no, Un cuomane. Pensavo che andasse frigio, invece Marco mi ha detto no, è una bomba, è meglio del 60, dice, vero questo? Ehi, è uscito benissimo. Oh, stavo uscendo con 5 watt io, e loro erano molto più forti sicuramente. Io ho l'antenna piena d'acqua, non posso parlare. No, parlo in V, stavo uscendo con 5 watt. Ehi, già ho capito. E mi ascoltavi direttamente? Ehi, ti ascoltavo V, ho ascoltato tutto. E c'ho un antenino da 13, infatti tu così eri con un palmarino o che cosa? No, c'ho il ricevitore, ho impostato la frequenza UHF che non ce l'avevo, l'altra già ce l'avevo e poi ho ascoltato in 28 con l'altro. E che ricevitore c'è, Natale? Un ricevitorino da Uniden a tavolo. Con l'antenna esterna però. Eh beh, mi sembra, è con l'antenna PMR stavo ascoltando. C'ho il cavo H155 in quella lì, però la tolgo e metto la X30. Stappa, c'è una bella giornata. Devo metterci il palo, cioè il palo che mi ha dato Salvatore Maestrale, sono mi sembra 8 metri, vabbè io ne metto solo 6 metri, però non lo faccio uscire a 6 metri, li metto un po' dentro in modo che sia un po' più robusto il palo, è il palo di qualità, però non mi interessa salire tanto, tanto poi ho 5 metri d'antenna e ne devo andare. E poi se vi ascolta buio con l'antenna, se vedi quell'antenna ti metti le mani in testa, ascolto tutti i ponti, da qua ascolto tutto. Con quella 7000 dovresti ascoltare bene tutto. Voglio vedere cosa riesco a attivare. Se è vero, l'ho preso, lo attivavo, nel senso l'ho visto quando l'ha attivato Gianfranco e come si chiama? Quello di Itica arriva fortissimo almeno, cioè, bisogna vedere, sperare che riesca a attivare l'imbara, se no pazienza. E c'è il 7 alfa per esempio, io lo sento benissimo qua. Che cosa, l'R7 alfa? Sì. E vabbè, ma quello già arriva forte. L'R0 sento, dopo chi è quello che fa BBBB in CW vanno al momento che appontia, forse l'R2 alfa. Non lo so, me li devo, cioè ce li ho tutti segnati i punti, sono tutti i punti della Sardegna, della Liguria e della Corsica. Però sono tutti scritti piccolino, me li devo ingrandire un pochettino perché li ho stampati, già erano scritti piccoli e sono stampati ancora più piccoli per farci stare tutto in una pagina, ma devo luce di gozzo, cioè lo leggo sì ma ti confondi perché sono uno vicino all'altro. Perché poi non è tanto i punti, devi mettere anche i tuner se li devi attivare. E ci sono scritti anche quelli nelle frequenze, c'è anche il tono, il subtono, no? Per attivarlo il tono. Sì, sì, infatti quelli della Francia sono diversi dalla Corsica e i tuner sono diversi dai nostri. Adesso quando c'ho tempo me lo faccio bene al computer, scritti bene, in modo che i punti principali me li scrivo. È inutile che mi prenda il ponte di capoterra e quando lo attacchi il ponte di capoterra. Sì, infatti. Non c'è nessun altro qua su 10 Natale. Non ho sentito nessuno, la verità. Sto aspettando che mi devo fare l'insulina stanotte, quella lenta, perché c'ho solo quella da fare, le altre me le hanno tolte e prendo una pastiglia al giorno, ma quella funziona benissimo. Sono contento, dai, almeno cacchio, hai detto lì un po' di problemi, ma quante volte al giorno devi fare l'insulina? Due volte? No, quattro me ne facevo, adesso una sola, quella della notte e quella lenta. E come mai prima te ne facevi quattro adesso una sola? Perché mi ha dato la pastiglia per al posto delle insuline, una pastiglia solo prendo a colazione e funziona per tutto il giorno. È una bomba, funziona benissimo. Infatti il giorno 10 devo andare alla visita e gli devo portare il libretto e delle glicemie, no? Ma a me non è che mi sale molto. Sono contento, cazzo, che è un fastidio ogni volta che toccate di passi. Adesso mi ha affidato questo fatto delle orecchie, delle ottite, cacchio, quattro bacilli, tre alla volta, poi la sera, la notte nel biglia a quattro. È una prigione, vabbè. Ma tu non sai, i dolori c'aveva l'orecchio, ma da frillare mi ha smattersi la testa. Poi sono andato dal dito guasto dalla farmacia, se lo trovo lo scudo in faccia, e mi ha dato il coso, la cerumilina per il coso. Gli ho detto, ma è un antinfiammatorio? Sì, sì, l'ho fatto vedere a Bolognini, mi ha detto, ma stai scherzando, questo è peggio, è come che tu c'hai un coso e ci butti l'acqua dentro. Dice, assolutamente sbagliato, ha dato subito cortisone antibiotico e tachipirina. Ah, povera ragazza. Non bisogna fidarsi, no. Ma poi è un imbecille, fa tanto il presuntuosetto questo. Io conosco la tipa che c'è una vita veramente brava e preparata, eccetera eccetera, e che era impegnata, ma venga qua, sono andato da lui perché non ci voglio mai andare, perché a parte che secondo me è un mandrone, una volta che dovevo fare perché adesso puoi fare tutte le operazioni online, l'hai visto, ti danno quella specie di chiavettina, però ti va, ma adesso non posso, trovarlo, venga domani, tu fammelo adesso, no, ma alla fine sono dovuto durare domani da questo scemo, proprio un mandrone. Infatti, e hanno una Puglia, poi dicono non c'è lavoro. È un giovanotto, ci sarà un paio d'anni qua in questa farmacia, a parte che è puro antipatico, perché uno può essere incompetente, però magari questo è puro antipatico, l'altro invece, ciao caro, come stai, tutto quanto, simpatica, una bella donna. Ma c'è chi su gatta blu? Sì, il classico tipo, facciamo perdere, va, che poi dovrebbe essere laureato almeno in farmacia per stare lì, come fa a essere incompetente? Allora proprio è un tutturrone. Non lo so, è un tutturrone, sicuramente è un tutturrone. Poi c'è un'altra che sembra che sta muovendo da un momento all'altro, tutta vecchia, questa vecchia almeno, la riviccia, poi non so quanti anni c'ha. Allora, deve essere, io dico, un negozio, soprattutto una farmacia, deve essere attivo, sveglio, cosa serve, guardi, gli posso dire questo, fare, cioè deve avere anche un po' di socialità con le persone. Invece Ghitlo è un antipatico, l'altra è un cadavere ambulante, è un zombie, solo una ce n'è in gamba, però molte volte è impegnata, però quella è amica di tutti, tutti la vogliono bene, si scherza, ti fa la battutina, allora come va, quello, quella, deve avere anche un bel rapporto con i coso, con i clienti, secondo me. Sì, come si dovrebbe fare, ma purtroppo non sono tutti così. Tu prendi, per esempio, c'era un tabacchino qua di fronte a me e quello l'hanno chiuso, l'hanno venduto a questo che ha aperto nella fila mia, il nuovo tabacchino, ma di già zero di base, ci sono tre commesse, una meglio dell'altra. Sì, così il bar c'è dietro, dove c'è Viareado, la parallela Viareado, non so se si chiama Via Fada, boh. Ci sono queste ragazze che hanno preso in gestione c'è il tabacchino, prima era un coso di veci, non andava nessuno, tu devi vedere come è rinato questo pozzo, ce l'hanno un 4-5 anni, completamente un altro tipo di attività, giovani, anziani, tutti un bel cordiali con tutti, prima era un coso di anziani, stavano tutto il giorno seduti, si guardavano la Nuova Sardegna, tutta la lì, due o tre persone, adesso è sempre pieno di gente, poi veloci. Queste ragazze sono velocissime. Sono competenti, bisogna essere gentili con i clienti. No, è così, no. Quelle lì per solo perché avevano la faccia del coso, diciamo così. Cavolo! Non ci andava più nessuno a questa banca, l'hanno dovuto vendere. E questo, guarda, che ha aperto adesso è una miniera d'oro. Perché ci sono tre commesse, una meglio dell'altra. Dimmi una cosa, Natali, ma non so se l'hai conosciuto tu, Quai, quel negozio vicino all'edicola che vendeva roba elettronica, vabbè tu ci sei troppo poco, era mio compagno di scuola, Antonio Quai, di lì in Corso Trinità. Ma no, c'è ancora, in via Rosello. Ci hai trasportato in via Rosello? Sì, in via Rosello Quai. Ma che c'è il figlio, il babbo e la mamma ancora ci sono? Sì signore. Piazza Bonadi senza Virello, eravamo compagni di scuola, eravamo molto amici, poi ci siamo presi di vista, poi ci vedevamo non la notte con gli amici, ci trovavamo prima di essere sposati sino agli anni 90, 93, 94, siamo stati tutti venuti, ci trovavamo, poi lui si è fidanzato anche lui e poi non ci siamo più visti, io mi sono sposato, gli altri amici si sono sposati e ci siamo persi di vista, ma proprio perso di vista. E la madre di quel ragazzo è amica di mia moglie. No, brava gente, il padre e la madre sono veramente in gamba, lui purtroppo ha un problemino alla mano, vabbè, se ne ha fatto sempre una malattia, infatti non lo so per quale motivo. Purtroppo già lo so, lo conosco. Diglielo che ce l'hanno tutte e due in chiesa oggi, Mario e moglie. Cioè, insomma, è distrutto. Già ti ha sentito? No, non ho sentito, cos'è? Ha detto mia moglie che erano tutte e due, il padre e la madre di quel ragazzo, in chiesa stamattina. Ma è distrutto. Ha detto tutto, il padre o il figlio? Il padre ha detto. Ma perché fa male? È invecchiato tutto un colpo. Oh, è anche grande, diciamo. Allora, quell'uomo Cioè mio padre ne aveva 88, quello lì c'aveva 80 anni almeno. Era piccoletto, guardavamo, cioè anche la moglie è piccoletta, ma erano brave persone, molto, molto gentili, eccetera. Vanille magari è grande anche lì, non lo so. Io ripeto, sono da tanti tanti anni che non li vedo, ma hanno più di 80 anni quell'uomo, considerando quanti anni c'aveva mio babbo, siamo io e lui coetanei con Antonio, lui supera gli 80 anni il padre e la madre. Infatti me lo... però la moglie è più giovanile, diciamo così. Sì, probabilmente la moglie ne avrà 85-86 il padre, e la moglie fa che ne abbia 80, qualche anno di differenza. E noi era una bella coppia, sempre insieme, li trovavo tante volte anche per andare a Città Mercato, oppure se già lo trovavo. E quel negozietto, non dico adesso, perché gli hanno spezzato le gambe quando sono arrivati le grandi distribuzioni, ma non so quanto lavorava 20 anni fa quel negozio. Sì, già lo so. Adesso è in via Rosello, all'inizio di via Rosello l'ha trasferito. Allora Rosello ancora c'è Gasperini? No, era alla fine Gasperini di via Rosello. Io conoscevo anche a lui. Gasperini cos'era? CB pure, ora di amatore? No, CB mi sembra che fosse. Anche quello all'epoca, quando il centro storico viveva, parliamo 30 anni fa, lavoravano un bel, c'era anche bella roba, Antonio Quai, quello lì, con negozio vedeva lavatrici, frigoriferi, baracchini, televisori, diciamo, non è che c'era grande scelta, però su ordinazione magari ti poteva fare avere qualunque cosa, e io ho comprato qualcosa, a parte vabbè, erano compagni di scuola. E ancora oggi li vende lavatrici di tutto. Ah, li vende ancora? Sì signore. Adesso sono da molto che non ci passo io lì, anche perché c'ho quel problema alla gamba, no? E quindi non è che posso camminare molto. Ti ripeto, io nemmeno ne sapevo che ci fosse di lì. No, no, c'è da parecchi anni. Solo non so come fanno, sopravviveranno adesso col discorso di internet, grande distribuzione, che cazzo va a comprare una lavatrice in un negozio del genere, tu mi dirai, ti faranno un buon prezzo, ti danno l'assistenza, perché la mamma poi si metteva a prendere, portare il fornazzino, guarda, mi sono rotta la spina, vendevano anche tipo prese, carretti, cose così, allora ti cambiavo la spina del fornazzino, era una brava persona. Sì, già lo so, la conosco, amica di mia moglie, infatti stamattina erano in chiesa marito e moglie, me l'ha detto mia moglie adesso. Ma la chiesa voi quella della Trinità andate? No, a San Sisto vanno. Come mai fuori? Ma non è più vicino alla casa tua quella? E vabbè, mia moglie è sempre stata parrocchiana lì e anche i coniugi Quai sono parrocchiani di San Sisto. Abitavano, ciao Luca, abitavano sopra questa opportunità, sopra il negozio per tanti anni. Non lo so dove abitano, comunque il negozio è sempre lì, in via Rosello. E sono parrocchiani di San Sisto. E c'è un prete argentino, c'è lì. No, come l'altro giorno è venuto il prete di fronte a Luca, lo conosci l'ex prete? Luca. Ciao Roberto. Oh, chi? Non lo so, Tonino, conosciuto? No, dove abita? Dove abita? È la rubrica del cuore macolà. Boh, io l'ho conosciuto tanto, ma questo non l'ho conosciuto. Adesso non c'è più perché è grande, c'ha 80 anni quest'uomo. È venuto in officina, si è fatto dei lavoretti. E poi c'era 17 anni di lì a cuore macolato. Io ho conosciuto il padre Dino, padre Armando, poi l'altro, vabbè, ne ho conosciuto tanti, però questo qua, ce n'è uno che è di Sennoli, è un caga puntini puntini, siccome noi portiamo la Madonna, adesso vabbè, per via del Covid è un casino, e poi è un po' strano come persona, sembra che sia proprio lui il padrone, e poi il padrone non è. Vabbè, anziano giovane. È grandetto, avrà 70 e più anni. E la madre mi diceva, no, questa è una brava persona, e ti posso dire, se non si presentava dopo perché è venuto un discorso, alla fine gli ho detto che il mestiere fa, lui dice, io sono un prete. Ah, non te ne accorgi, vabbè, te ne accorgi per l'educazione, magari, stando attento, sì, però non pensavo che fosse un prete. Poi c'era Don Salvatore, quella era, vabbè, non era, vabbè, diciamo il chirichetto della chiesa, che lui faceva, metteva a posto le candele, dove tu metti le offerte, so, facciamo un po' di tutto, no? E che ricchetto di voi, ma nessuno l'ha fatto. Io. E tu l'hai lì? Cosa? Che ricchetto mai fatto, dai? No, negativo. Perché a me, quando eravamo piccolini, parliamo 8 anni, 9 anni, mio padre ci portava alle 7:30 a Santa Caterina la domenica, un sonno, non aveva quasi di più, dovevamo andare a fare il chirichetto, avevamo 3 passoni in tutta la chiesa. Figurati. E facevamo il giro delle culisse e non aveva nessuno, 3 donne vecchie, cioè, e poi invece d'estate quando andavamo a Giove ci portava da piccolini, stavamo un mese di lì in vacanza, ci aveva preso una casa in affitto, e lì cacchio ti facevi un po' di soldi perché il prete ci pagava. Addirittura ti dava le dinari, ogni messa che facevi ti dava, vabbè, un po' di dinari, all'epoca erano in lire, 100 lire, ma sarebbero 2000, cioè 3-4 euro di adesso, 5 euro. Poi se c'erano i funerali, chi che era esempio i funerali ti dava, per dire, 500 lire. Poi se dava una mano a suonare la campana, perché c'era il campanile, la cosa più bella era andare nel campanile, perché ti va di soldo, però era bello, divertente. Io non facevo niente perché non ne sapevo fare, c'era quello che suonava, però ti davamo una mano, lui diceva, tu fai questo, din din din din, e io faccio il resto, l'altro faceva le melodie. Sta vincendo la Juventus. La Juventus sta vincendo 1-0, ha tirato la calcio d'angolo, non lo so, manco è quadrato, e ha fatto il gol a calcio d'angolo. Sì, io lo so. Ha scritto un tipo su Facebook. L'Inter sta andando, Robè? Ehi, Cartagena Giù sarà a Roma, Gesù Maria. Li ha ammazzati, l'ho visto la partita, ho visto anche Napoli, ma la partita Napoli-Atalanta, sono troppo contento, erano troppo convinti questi napoletani, eppure sempre facendo le vittime, ci manca quello, il Milan è tutto un campionato che ci ha giocato rinfortunati e non si è mai lamentato, questi sempre da lamentarsi, se perdono perché è colpa dell'arbitro, perché è quello, per quella, poi quando gli danno il rigore inesistente, tipo col Cagliari, oppure gli danno un gol che non era regolare perché c'era un fallo, eccetera, eccetera, non si lamenta. Le scuole, Ludo, dove le hai fatte tu? Degli armonte sempre? Le scuole elementari, sì. Quelle vicino alla chiesa? Sì, vabbè, ho le di scuole. Ho visto, era un po' che non salivo, in via Grazia dell'Edda, ma l'hanno fatte belle quelle case popolari, veramente belle, le hanno rivalutate. Aspetta, vabbè, un attimino, che ho messo in vendita un sellino di uno zip nuovo, io lo zip non ce l'ho più, se l'ha accorta, è nuovo, l'ho vista su internet, sto pantalo costa, ha costato 30 euro, e deve venire questo tipo di ozieri a prendersi la vostra sella, tanto che deve venire qua a Sassari, aspetta un attimino, scusate, riprendete. Ehi, avevo capito che se la sta dicendo, vai Natali. La sella di un motorino zip. Zip? Sì, una sella di motorino, di zip, Ne uno in officina me l'hanno lasciato, madonna, è morto, gli avevo preso il garelli, me l'ha regalato amici di famiglia, poverino quest'uomo, e mi ha lasciato anche uno zip in officina. Nuovo? C'ha pochi chilometri, mi pare c'ha 3000 chilometri, è un peccato, non ha usato niente quello, col librettino ancora. Ah, prendendo lo sta? Me l'ha lasciato lui a venderlo, poi c'era la figlia, lo prendo io, e invece poi non ha bigliato, ma non lo vendo perché mi dispiacerebbe darlo. Vabbè, se ci pensi fammi sapere. Perché ti interessa? A me, perché mi sono pentito di averlo venduto. Rosso mio. E che modello è, Robè? Quello vecchio, quello che c'ha le 5 razze, i cerchi a 5 razze. Non me lo ricordo, ma a memoria è quello vecchio. Vabbè, comunque c'hai anche il libretto? Eh certo. Ma fammi sapere, mandiamo un po' di foto, vediamo un po', ci mettiamo d'accordo. La mia era abbastanza nuova, l'ho data perché purtroppo adesso te si nocchi. Purtroppo, dovevo recuperare dei soldi, ma alla fine non dovevo darla perché mi serviva la moto. Guarda Luca, ho fatto prendere a quella fianca a me, a te, tu non so se fosse troppo giovane, il bravo, ho conosciuto la Luca, Natalino già l'avrà conosciuto, il bravo ha fatto le cose di Natalino. L'ho conosciuto, lei ha voglia. Aspetta che ti ho parlato sopra, cosa hai detto Luca? Ha detto a voglia che l'ho conosciuto il bravo. Allora, l'ho fatto prendere, non quest'estate, l'inverno scorso, il bravo, nuovo, del 1980-81, perfetto in tutto, già revisionato, con la targa nuova, anche le morse, tutto perfetto, un amico che lo usava tutti i giorni, vabbè, a parte quando pioveva, 200 euro, un affare mondiale, non me lo sono preso io perché c'ho il ciao, io ho un ciao del 69 restaurato, bellissimo, poi abbiamo anche il sì, ce ne ho tante di questi motorini così, ed è un affare mondiale, e ti posso dire, è bravo, è una moto affidabilissima, tranquilla. Sì, cazzo, non li facciamo più chiusi quella, 200 euro, occhi chiusi. Secondo me Fabrizio, l'amico qua, radioamatore, lui ha restaurato come me un ciao, però lui il mio lo special, il suo è la versione normale. Prendo la Gesù, se ne ha mangiato, ma non prendevo, io non me lo sono preso perché sinceramente non me ne valevo nulla, perché ne ho, ti ripeto, talmente tante di quel, mi ha dato quel signore, prego dei Garelli VIP, Luca, rosso, nuovo, col librettino sempre, ma lo volta fare l'anno, ho detto, no, guardi, un'offerta, però gli ha dato 50 euro. Io ho avuto quello. Sono belle quelle moto. Io ho avuto Benelli anche, ho avuto il VP3, il VP4 comunque nel massimo, se la preparavi bene camellava quella moto. Poi ma poi c'aveva il ciclone, e su quanto camminava chissà moto. Ma un motore allucinante, sono tutto giraffo, era una bestia. Niente, robe, fammi sapere se è nuovo questo zip. Sì, è buone sue condizioni perché è rimasto tanto tempo, non usava niente, mi sembra c'ha 3.000 km o 13.000, adesso non mi ricordo, pochi quello ne ha, perché sempre io ce l'ho almeno 5 anni in officina, coperto e tutto quanto, però la moto di Line Road, devo farla prendere a una persona, un amico, non qua in Italia, fuori, poi costava troppo il padre di una mia amica, poi a trasferirlo era un po' problematico, e allora ho lasciato stare qua, e ce l'ho qua, è venuta poi la figlia che... Ha detto, dai, me lo prendo io per la vista, ha detto, ma come faccio a usare quella moto? E ci hanno comprato uno scooterone. Fammi sapere robe, ci mettiamo d'accordo, non c'è problema. Tanto poi bisogna fare la taga nuova. Come si dice? La taga nuova costa intorno ai 90, no, aspetta. 90 euro, circa 90 euro. Una cosa del genere, se vai in agenzia. Cosa volevo dire? Aiuta, va bene, sono dimenticato. Di moto di questi cinquantini ne ho uno, aveva uno spettacolo. Il Mondial Super Sport era una moto, diciamo, sembra una moto da corsa, del 63, rifatta nuovo, restaurata. Se capita ti mando le foto. Poi c'ho il ciao bellissimo e poi ne ho diverse, altre una diecina di moto. C'ho anche un califone, con il librettino originale, mai riverniciato. Andare di si moto, sono troppo belli. Troppo belle. Io stavo cercando tipo il Benellino, l'altro, si assomiglia al Benellino, poi sai il Gilera, c'avevo un mio amico lo stesso che sta sopra di me, una di quelle, però vabbè, il Benellino cazzo io l'ho avuto, me l'aveva regalato un tranviere, perché la moglie non la voleva più questa volta in casa, ma me l'ha regalato proprio perché lui non la voleva dare, era proprio, ci teneva un sacco per questa moto, ha detto la regalo a te perché boh, non lo so, me l'ha regalata, ma ti parlo, c'avevo 14 anni, sto parlando di 33 anni fa. Allora io di Benelli c'ho il City Bike, che è quella moto spaziale che ha le ruote grosse e c'ha la sella quadrata e si solleva sotto c'è il serbatoio, quella è una moto un po' rara. È già restaurata, però devo fare solo i parafanghi perché erano in resina, una specie di resina, volevo sistemare, bella. Poi c'ho il Garellino piccolino che lo faceva anche il Benelli Motorella, che ce l'avevo io nuovo, l'avevo poi venduto perché era capitato a un signore. Poi cosa c'ho, un'altra moto antica e altre due o tre moto, adesso neanche mi ricordo. Io ho avuto il Benelli Export, la prima moto che ho avuto, e non per vantarmi, era la moto più veloce dei ciclomotori a Sass, nessuno ci ha mai battuto in discesa, noi facevamo le gare in discesa, partivamo da Monte Bianchino sino a giù, allora si poteva scendere oppure dalla circonvallazione, allora parliamo nell'80, 81, dai, quel periodo di lì, ha fatto 105 di velocità con la moto all'acceleratore perché avevano rapporti lunghi, marmita spillo e carburatore, non andava fuori giri, tutte le altre moto arrivavano a un certo punto, andavano fuori giri e io ribassavo, tutti abbiamo passato, era una cosa esagerata, è durato poco quel motore che poi ha grippato, però era una bomba. Comunque vabbè, se fammi sapere. Io me la sono pinto, la mia era perfetta. Ci avevo messo le gomme nuove, avevo detto che era da cambiare, vabbè, c'era buona ancora, poi ci ho messo le ganasce nuove, i palini della forza erano nuovi, e poi l'avevo riverniciata, ma guarda, è uscita anche bene, qua, è uscita anche bene con la moto. Me la sono pentito, va, la giubina giù rigarata, che se giù su medio di nato, pezzi 75 sotto, rapporti, cos'è che non va via? Mi sono pintuto blu, poi ho dato un bustone di pezzi, ti ho dato. La giù rigarata, credimi Rob, vabbè, Natale ci sei. Sì, sono qui. E tu Natale il motore sei piccolo, l'hai avuto ciclomotore? Natale il ciclomotore l'hai avuto tu? Sì, un bel. C'avevo anche l'Aprilia da poco che me la sono venduta. Le mani mi dovevo tagliare. Aspetta, come cavolo si chiamava quell'Aprilia con le ruote grandi, quattro tempi era. Lo Scarabeo. Allora se tu vai da Macedo, adesso non so se ci sei ancora, prima di arrivare da Macedo, tempo fa, stiamo parlando un mesetto fa, hanno rubato una di quelle Liberty 300, nuova, l'hanno presa e ce l'hanno buttata in mezzo alla campagna, un peccato di moto, ma nuova, e hanno tolto la targa e il parafango di dietro, deve essere perché c'era la targa, tu vedi la moto, un peccato, lampada in chibi, chissà il padrone cercandola. Beh, vabbè, comunque come sapere, nel caso, mandami un paio di foto. Luca, non lo so se la vedo, perché questa è una cosa, la persona poverina è morta anche da poco, non lo so, ne parliamo con calma, dai. C'è problema, non sto obbligando a vendere, se ci mettiamo d'accordo, dipende da molto nel voi, se vuoi molto da dare, se no pazienza, non è che, sempre amici rimaniamo, tranquillo. Se ci mancherebbe, e non ricordo lo slip tuo, forse una volta eri venuto in officina, qualcosa avevo fatto, possibile lui? No, non è molto mai niente, sono venuto una volta, vabbè più di una volta sono venuto, una volta anzi mi avevi dato un alimento a Torino, che mi serviva per un portatile, mi sa, poi se non mi ricordo, poi un'altra volta ancora sono venuto per darmi quei computer, ti ricordi? Sì, che colore era, non ricordo, può essere bianco. Sì, bianco, era nuovo come roba, ci ho messo un bel di soldi, un bel di soldi ci ho messo sopra la moto, un bel di soldi, l'ho regalata. E poi te ne penti, c'è coso, Claudio Di Muro, lui c'aveva il, come cazzo si chiama quella moto, il tubone, adesso non mi viene il nome, cioè ti dico quanto l'ho venduto e tu non ci credi. Allora io non ci potevo credere quando mi ha detto il valore, allora ho guardato su Motociclismo d'Epoca, sono rimasto scioccato, siccome se l'ha comprata un amico mio, quella che c'ha il raffreddamento al liquido, c'è presente il tipo il California a tubo, come si chiama, il 50 mi sembra che si chiami, se non sbaglio. Per quello amico mio era nuova fiammata, e poi l'ha pagata 300 euro, ha detto ma tu sei Marco 300 euro o 400 euro, bella, tutta perfetta. Lo sai quanto l'ha venduto Muro? Se ti dico una cifra. Ah, 1000 euro. 1200, la stavamo vendendo 1600, ne è venuto questo, non so, da Bologna, che è venuto, è andata 1200, ho detto, ma che hai fatto un affare? Ho guardato le valutazioni, dico, la moto vale 1300 euro, più del ciao mio, pur essendo una moto più, che sembrerebbe più preziosa, chissà perché c'ha mercato di quella moto, che è una cosa esagerata. Gli si già vagano con le moto. Io ti faccio vedere delle moto d'epoca vecchie, che tu dici il Travaglio Medina, io ne ho una del 53, un cinquantino Olmo, che ne hanno fatto talmente pochi per trovare notizie, l'ho fatto vedere a mezzo mondo, uno poi alla fine mi ha detto che tipo di moto era per cercarla, e tu sei convinto che una moto vale un bel, invece vale pari 1000 euro, e tu ne hai una moto del 53. Sì, cioè, ce ne sono molto che valgo, mia papà l'avevo fatto prendere un ciao da mio fratello, con i cerchi a raggi. Cioè questo qua, poi in Sardegna già se ne detto, lo sai chi è che stanno andando fuori mercato i brizzi? Le Vespe. Ecco, cosa se ne può comprare? Le Vespa, un rotame lo paghi 800 euro, un ferro vecchio, se poi in ordine dai 2000 euro in su. Sì, è vero, è vero. Ce lo so, mi ha tagliato già piccata, roba. C'è ancora Natalia, c'è anche il libretto, no? No, non c'ho più nulla. Era in campagna, c'avevo il pick up. Ma 50 o 112? No, 50. Stavano prendendo la Vespa successiva al pick up, quella di rotondata, non so se ce l'avete presente. Quella stavano vendendo una bella, 300 euro, ma bella veramente. La Vespa secondo me è la più bella moto che c'è in circolazione. E si conferma, lo spiccia. Un sogno quella moto. Magari. troppo che prendono, cavolo. 3.000, 3.500. Allora, se poi vai a comprare un Vespone, 125.000. No, non parliamo di Primavera, 125 Primavera, GT, GS, quelle non le cerchiamo. Parliamo di moto che abbiamo conosciuto noi da ragazzi. Cioè, se lo vuoi bello non lo paghi, meno di 3.000 euro. Già lo so, lo so. E con 1.000 euro ti compri un'appunto usata adesso. Cioè, tu prima che ho trovato... un amico, una Lancia Y, modello 2001 mi pare, 2002 se non mi ricordo, era di una signora che praticamente era tutta sbiadita dal sole, tra la brice mangiata, c'erano 83.000 km e era CC targata. Io quella che ho di mia figlia, ormai l'avevo presa, stava andando a vedere qualcuna di macchina. È venuto un amico in officina, qua devo trovare questa 1, questo appunto del 2001. Non solo per andare, lui mi dice, come lo trovare? Ma l'ha fatta vedere 105.000, 103.000 km, unico proprietario, nuova dentro, gli interni perfetti, era anche lo stereo, ancora dentro la scatola, gli altro parlare, nuova. E c'era un paio di punti di ruggine sulla cappotta, glieli ho fatti, ma fatti così, fracco e baratto. E tu la macchina, se la so usare, è una 3 porte, non è 5 porte, il motore è un gioiellino. Gli ho messo le gomme davanti perché erano un po' vecchie le gomme e sta andando mia figlia. E va bene, una macchina così va bene. Infatti adesso, vabbè, ora come ora non me la posso permettere, vabbè, perché ho altre spese. Ma appena finisco, stavo pensando di comprare una macchinetta per lavoro. Cioè, per lavoro, anche per uscire, però una macchinetta così da, come si dice, da battaglia, ecco. Natalia, la tua è unico proprietario? Natalia, lui. Ho detto, se la tua appunto è unico proprietario. No, l'avevo presa a seconda mano, ce l'avevo un rappresentante, siccome gli serviva una macchina più grande perché gli era nato un altro figlio e quindi voleva una macchina più grande e ci ha pigliato una di quelle Station Wagon. Io l'ho presa alla Opel quella lì, a 28.000 km ci aveva quando l'ho presa. Ma che cosa, era nuova quando ti ho conosciuto? Sì, Nino mi l'hanno arruinata, tutta tanta Ducata, tutta... Quando dorme fuori la macchina, invece arrivare piano piano in parcheggio, dove si chiude in curata. Adesso poi ci sono questi balordi, ma non so quante macchine mi stanno portando con i cristalli spaccati in officina. Sta ritornando la moda di spaccare i cristalli. L'altro mi l'altro giorno una ragazza, l'uoto spaccato, l'altro che hanno spaccato il deflettore del Ducato, l'altro il cristallo posteriore. E a me uno o due stecchetti presi a calci mi hanno rotto, infatti li chiudo sempre adesso, se no me lo ritrovo in terra, questi balordi maledetti. Ah, voi li cambiate, roba? Che cosa? In un uti, per parabrezza. E certo. Ah, pensavo, vabbè, non lo facevo altro. Pensavo lo facevo quello che facevi a Pascoli. Quelli fanno solo quello, ma non è la stessa cosa. Lo fate meglio voi? Vabbè, non entriamo in merito, non si fa pubblicità, dai, stiamo parlando di cose diverse. Vabbè, loro fanno solo quello, poi fanno l'uccidatore di fari. Quella è una stabilità da Barufondo, e la gente paga, l'uccidatura che te la puoi fare a casa tua. Noi parliamo di quando entrano, dice, ma non è una lucidatura da fare, no, noi non li uccidiamo, noi li riverniciamo, li raschiamo a fondo, li diamo sul policarbonato, ritornano nuovi come la fabbrica. Quanto costa, Roberto? Perché la mia ragazza ne ha due, uno è nuovo e l'altro è vecchiotto e si vede un po' così. Perché quelli che ti fanno la lucidatura prendono la lucidatrice col faro attaccato, attaccano un po' di bove, di pasta abrasiva e lucidano. In certi casi riescono a rimetterli un po' in sesto, però stai togliendo del materiale per cui è ancora gli atmosferi che se lo mangiano ancora di più. E ti chiedono 20 euro. Il lavoro che faccio io costa 35 euro perché il faro lo dobbiamo staccare dalla macchina, vi togliere il paraurti e tutto. E dopodiché lo devi raschiare a fondo con tante grane di carta abrasiva e poi si dà la verniciatura del trasparente sopra e ritornano come nuovi. E i tempi? Semplice fa, portando la macchina a prezzo prezzo, la sera si ritira, se non piove. Ah, ci vuole una giornata praticamente. Il problema è l'essiccazione. Quelli altri invece te lo fanno in presenza, lucidatura, le fanno anche a città mercato, quella vagizi, cose così. Poi faranno anche quell'altro sistema che dico io, non lo so. Però normalmente quando entrano la lucidatura si attacca la lucidatrice ed è così. Comunque a me l'ho chiesto, ci quanto ero a fare. Ma come dico io? Lucidati. Ma aspetta, lucidati 50 euro è un furto. Normalmente chiedono 20-25 euro. 50 euro me l'ho chiesto. Non lo so. Io so del mio mestiere, vabbè, ognuno sa del mestiere suo, non lo so, questo non li conosco. Tu quando hai il campo mio chiedi sempre, Luca, se ti posso aiutare lo faccio volentieri. Idem io, vabbè, non è che... Allora, se ti faccio un esempio, se vai, allora, un tecnico, io so, detto da lui, lui il PC non te lo resetta, non ti fa un reset, lui va dall'impostazione, entra lei, fa tutto, e vuole 70 euro, detto da lui, mi, e ci mette, se o no, 20 minuti di orologio. Non capisco niente, io devo fare il mio Toshiba, mi devo mettere tutti i dati, mi ho preso una chiavetta, ti è presente, non è che c'è molta roba, più che altro sono roba di fatturazione, qualche cosa, qualche documento salvato, ma una cosa ridicola di roba, non c'è niente. E accelerarla che è un chiodo, è proprio una cagata. Che roba, non ci sono problemi, anche lì mettiamo Windows 10, quando vuoi non ce ne sono problemi, lo porti, tanto penso che non hai fretta per farlo. No, c'è già Windows 10, quello è nato Windows 8 e c'è Windows 10, ma non l'ho mai pulito, è sempre da quando ce l'ho, è sempre così. Infatti prima di basti ci prete 10 minuti. Guarda, la signora da poco ha messo un annuncio su tramite Facebook, no? Stavano cercando un tecnico di computer, però che li faccia per un prezzo buono. Tanti che hanno scritto, io l'ho scritto in privato, ho detto mi dica il problema, vediamo un po' se riesco a risolverlo. Dice che all'accensione gli faceva mettere la password, comunque questo PC era impallato, un Windows 10. Però non era né lei né io sicuri se era anche un problema di tastiera. Comunque io ho usato la tastiera esterna, ho fatto delle piccole manovrine, io l'ho rimpostato, cioè gli ho rimesso Windows 10 e il PC è tornato come nuovo, perfetto, gli ho fatto anche un ultimo prezzo, sono andato a casa sua mia a prenderlo, poi sono andato a casa e poi gliel'ho riportato. Io lo so Luca, già sei capace, no, io ho preso tramite consigliato Gianfranco per fare quell'operazione, perché quello di Claudio era limitato per fare certe cose, e ho preso questo Fujitsu di un server, questo c'ha Windows 10 Pro, SSD, 8 GB di RAM, cosa c'ha poi? Hard disk da 240, eccetera eccetera, bellino, è tipo un decoder, piccolino rimane, tipo un decoder di quelli per il digitale terrestre, fatto bene, ti posso dire costruito bene, non è una cagatina perché lo usavano a livello professionale, l'ho pagato 177 euro. Cos'è, non hai roba, c'è questa cosa in mezzo? Beh, quello tuo sistema qui a posto. Sì, sta andando perfettamente, però non riuscivamo a fare certe cose perché non bastava la RAM che c'era. Allora, come mi ha detto Marco KB, mi ha detto questo utilizzatele per il coso, per il coolbook, metterci tutte le cose tue di quando fai collegamenti, e l'altro lo utilizziamo con Gianfranco per tutti quei sistemi digitali, eccetera eccetera. L'unica cosa che io ho questo monitor dell'Ace, anzi ne ho tre per esattamente di monitor, però sono piccoli, e ne volevo prendere uno da 24 pollici, stavo guardando su internet, ci sono quelli revisionati eccetera eccetera, però poi guardando su quello marketplace c'è questo ragazzo che ha un TV Samsung 24 pollici di quelli che non hanno digitale di nuova generazione, e mi sa che ci piacciono di quelli, costa 50 euro, mi ha mandato il messaggio, è ancora disponibile, adesso vedo un po'. Potessi fare così. Poi Robè, se quello che ti ho sistemato io ti serve in memoria, ma lo fai sapere, ci aggiungiamo un hard disk. Ma Luca tanto non deve fare niente, se no per memorizzare i nominativi, che cacchio di cosa ha bisogno. Poi ci metto quel programmino che te lo fa in automatico, che scrivi per dire il callbook, per fare, te lo fa, me l'ha detto Marco, mettiti quello mio che è molto semplice e veloce. Ho capito, via. Vabbè, se nel caso ti fa bisogno qualche memoria fammelo sapere, una cosa già ce l'ho, non ti preoccupare. E niente, lo so, purtroppo questi computer, io questo qua che me l'ho regalato, io questo qua gli ho messo l'SSD, ha migliorato un sacco, però ogni tanto mi si blocca, non so cosa abbia, l'ho smontato, ha 2 anni, io penso che abbia più di 10 anni. No, questo è velocissimo, cazzo, è una cosa, prendo i programmi, infatti abbiamo fatto con remoto con Gianfranco, una velocità allucinante, rispetto all'altro, è come c'è la bicicletta, come dice lui, con la Ferrari, è un altro tipo di macchina, lui è silenziosissimo, neanche si sente, è proprio micidiale come computer. E quando voglio prendere quel monitor di TV, cioè quella TV, perché c'erano già gli altoparlanti incorporati, Luca, perché se devi attaccare e sentire qualche segnale o qualcosa del genere, almeno c'è la possibilità di, no, ti puoi guardare, non lo so, la televisione da internet, c'è già anche l'altoparlante. Sì, si può anche fare. E beh, vabbè, tra l'altro il nominativo ce l'hai già. Sì, non te l'ho detto. No, non c'è bisogno di, non fregatene. No, stavo ascoltando stasera, pensavo che stai facendo le prove. Laggiù non ti sentivo da Marina, invece a casa sì. Oh, io stavo uscendo con 5 watt, e loro erano tutti con 50 watt. Per quello, vabbè, era piano piano. Comunque adesso sei operativo? Sì, c'ho l'antenino, ti vedete, c'ho un'antenina di bicicletta, adesso mi è arrivata l'antenna grande, quella enorme, e la musica ha cambiato totalmente. Vabbè, no. Comunque a me mi hanno mandato il libro, me l'hanno mandato, adesso me lo studio. Guardi quella roba che ti ho mandato, quelle cose, informazioni di quella persona, guarda che è molto facile, molto spiegando, è molto semplice, l'hai provato a vederla qualche cosa? No Roberto, ho avuto tempo. Allora, tu mi hai mandato 2 link, ok, però uno non me lo apre, aspetta, quadrato, non so se mi è stato così. Allora, mi ha mandato questa guida, mi ha mandato questo link, questo HTTP, Home Studio, però lo clicco, e mi esce, impossibile visualizzare in PDF, questione di esame. Allora, ce n'è uno che mi sembra che l'hai aperto, dove ci sono 22 sedute di esame, quello lì è quello che dico io. No, qua ce ne sono, allora, ci sono 4 pagine, 1, 2, 3, 4. Quello fatto dall'area di Liguria, ma questo è un professore, deve essere uno come controfalle, non è un classico radioamatore, uno che ne sa un bel. Vabbè, poi mi ha mandato un amico, mi ha mandato tutto il libro, non so poi, esci a vedere, che cavolo è, dovrebbe essere qua, allora è qua, eccolo qua, no questo no, sono cancellato, aspetta Roberto, che magari te lo trovi inoltre, ecco qua, cioè te lo inoltre, là. Così mi fai sapere tu cosa, se va bene, ma penso di sì, ho lavato un amico che era di amatore. Quello neri, sta dicendo, il libro di quello. Ti guarda. Aspetta, lo guardo, mancano 2 minuti a fine della partita, dopo, e come finisce il primo tempo la guardo. Ma poi c'ho gli appunti miei, Luca, non so quanto sono utili, sono una 30ina di pagine, di foglio A4, ma tutto estrapolato da tanti libri. E beh, la partita come sta andando? La Juve sta facendo 1-0, ha fatto una mega parata Sirigu da 2 metri sulla schiacciata di Dilit, proprio gliela ha presa in pieno, poi sulla respinta gli si sono buttati addosso e l'ha salvato. Mari, primo gol, se fosse stato attento, Mari forse non se l'aspettava, però si è risalvato su questo tiro. Ho capito. Vabbè, comunque è un bel sotto, ma diciamo che questa non ce la fa. Un'altra baranda, a me ne ha salvato un altro gol su Molatta da 2 metri. Sì, Roberto, io c'ho questo Eldorado, mi guardo le parziali su Sky. Eldorado? Sì. Ma di quelli ruffi? Di quelli ruffi? Sì. Stai molto attento Luca, attenzione che vedo cose in controllo, me, vedo la fonte sicura. Sì. Hai la scadenza, capito? Scadenza il 16 dicembre. Dove me l'hai mandato questa roba? Su Messenger o su WhatsApp? No, su WhatsApp. Ma però si blocca Robemmi, capito? Questo è Nerio Neri, tutti i radioamatori hanno studiato da questo libro, c'ero anche io questo libro, però il problema, questo non è l'ultimissimo, diciamo ci sono state anche delle modifiche, diciamo se te lo studi tutto esci a una gamba promosso, però non è semplice da capire. Quel tipo là invece te lo spiega a voce, ti fa la lezione come che sia un professore di scuola. Tu proprio la prima volta aprire col computer, non col telefonino. Siamo mandato su WhatsApp, come faccio a aprirlo dal computer? Mandamelo su Messenger. Se l'ho mandato su Messenger, di no, no, c'è da che controllo. L'ho mandato su Messenger, Luca, eccetera, eccetera, www.stmb.it, corso HTM. Aspetta, guarda che stavate parlando in due con l'attalino. Dato che se glielo mandi anche a lui. Ce l'abbiamo l'amicizia Natale noi. Non lo so, tu cerca Meli di Natale su... Chi crede di essere? Non può su Facebook. Perché tu te ne sei uscito, poi sei ritornato, non me lo ricordo Natale.